ci sono due esperienze che sono sicuramente le più interessanti. La prima è l'esperienza delle low profit company, che sono un mix tra compagnie profit e no profit. Si differenziano dalla nostra impresa sociale su un punto in particolare, vale a dire la possibilità di remunerare, seppure in maniera molto ridotta, l'investimento, cosa che nella nostra legislazione l'impresa sociale non prevede. Un'altra modalità interessante, un altro strumento interessante è quello dei fondi sociali. Ci sono ormai dei fondi specializzati che investono in quelli che si chiamano gli impact investment, cioè quegli investimenti che hanno un impatto sociale. Qua negli Stati Uniti si calcola che l'anno prossimo questo tipo di investimenti raggiungerà 500 milioni di dollari, quindi essendo ancora piccolo rispetto al totale del mercato private equity, quindi un 1% circa, però con una crescita del 60%. Cosa possiamo fare per smuovere? È una piccola modifica normativa che allo Stato italiano non costerebbe nulla, ed è una modifica alla legge sull'impresa sociale che proibisce di distribuire un profitto. Se si potesse distribuire un anche piccolo profitto a chi decide di investire, agli investitori sociali, e ce ne sono tantissimi nel mondo ormai, questo, diciamo, mondo dell'investimento sociale, potrebbe svilupparsi.